Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero, sono nella capitale americana perché, beh, ho seguito naturalmente la visita, il viaggio del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma c'erano poi nel corso del fine settimana le riunioni del Fondo Monetario Internazionale che sono finite ieri e, beh, ci sono, come dire, dei seguiti di queste riunioni, perché poi nei grandi think tank americani si continua a parlare delle grandi sfide economiche, finanziarie, internazionali, soprattutto della sfida greca. Sentiamo che cosa ha detto a proposito della Grecia il presidente Obama e che cosa ha detto il presidente del Consiglio Renzi nel loro incontro di qualche giorno fa. Greece needs to initiate reforms. They have to collect taxes. They have to reduce their bureaucracy. They have to have more flexible labor practices. If there is a moment of election and there is a new leader, it's correct to respect the votes of citizens, in this case the vote of citizens in Greece. Obama sostanzialmente ha detto, beh, la Grecia deve rispettare quelli che sono i suoi impegni, deve darsi da fare, deve procedere lungo la linea delle riforme, perché fare sconti in realtà non è previsto. Ecco, questa situazione è una situazione un po' d'impasse, devo dire, perché l'atmosfera che ho respirato a Washington, come avrete visto del resto voi sui giornali, è di forte preoccupazione. Non solo perché la Grecia potrebbe, chissà, forse uscire dall'euro e dunque creare uno stato di crisi nell'attuale contesto che regola l'euro, ma perché comincia ad apparire la Russia, che forse può aiutare la Grecia. C'è l'idea che possa essere chiamata in causa in modo più diretto l'America, forse, che finora si è tenuta fuori dicendo, beh, quello è un problema europeo. Ecco, io ho con me ai microfoni di America 24, proprio qui a Washington, e sono al Peterson Institute, al PPI, Peterson Institute for International Affairs, che forse è il più prestigioso dei think tank economici negli Stati Uniti, sono qui con Fabrizio Saccomanni, che è direttore generale emerito alla Banca d'Italia, ex ministro del Tesoro e in questo momento visiting scholar qui proprio in questo grande think tank americano. Buongiorno, dottor Saccomanni. Buongiorno. Allora, mi dia anche lei un po' il polso di questa situazione, perché la Grecia preoccupa e mi sembra che ha preoccupato tutti in questi lavori del fondo dove lei è andato e ha visto colleghi, ex colleghi. Ma certamente il problema della Grecia è un problema che viene visto con grande attenzione a livello delle grandi istituzioni internazionali, sia ufficiali che private. Devo dire, personalmente ho l'impressione che si stia facendo ogni sforzo, un po' da tutte le parti, per arrivare ad una soluzione favorevole. Credo che l'uscita della Grecia dalla moneta unica o addirittura dall'Unione Europea viene considerata come un rischio da evitare veramente ad ogni costo, anche per le considerazioni geopolitiche che lei faceva prima a proposito delle possibili implicazioni, diciamo, extra europee. Il problema è che, diciamo, la Grecia oggi ha un problema a breve periodo, perché c'è stato subito dopo le elezioni fughe di capitali, ci sono state purtroppo dei risultati negativi sul piano delle entrate fiscali, come del resto era un po' inevitabile dati gli annunci della campagna elettorale. Quindi c'è un problema di breve periodo, però c'è anche un problema di più lungo periodo della Grecia, che non è un problema di debito pubblico, perché onestamente forse non si sa che il debito greco è stato veramente spalmato molto a lungo nel tempo, nel futuro, a condizioni di tasso di interesse veramente molto, molto favorevoli. C'è un problema di riattivare i meccanismi di crescita dell'economia greca, e appunto per questo c'è la necessità di concordare con il nuovo governo una serie di riforme strutturali. Cosa succederebbe in fondo se la Grecia dovesse uscire dall'euro? Ma io credo che in realtà, diciamo, i mercati hanno reagito così così in maniera forse un po' meccanica, ma la realtà è che se guardiamo il confronto col 2010, quando la prima crisi greca era venuta fuori, le reazioni allora sono state molto, molto più acute. Oggi credo l'Europa viene vista più forte dal punto di vista anche delle istituzioni per gestire situazioni di crisi, quindi mi pare che questi sono dei piccoli rimbalzini tecnici, e credo che in effetti l'Europa abbia le capacità per resistere ad un'uscita o ad una crisi, diciamo, della Grecia di dimensioni ancora non prevedibili. Però quello che mi sembra importante notare è che, diciamo, c'è un rischio, come dire, di tenuta politica della struttura europea, cioè insomma ho sentito osservatori dire: ah, ma a questo punto se la Grecia esce, l'unione monetaria non è più un'unione monetaria, è un accordo di cambio, quindi diciamo molto più debole di quanto... Ma questo non è necessariamente vero, cioè no, si può dire di tutto, però poi alla fine il grosso dell'Europa va avanti, la Grecia ha un impatto così piccolo, così modesto. Sì, ma in effetti appunto abbiamo creato, c'è la Banca Centrale Europea, ci sono altre istituzioni, insomma non è un accordo di cambio come era il sistema monetario europeo degli anni 90. Infatti no, e dico questo perché proprio parlando con interlocutori americani, loro sono preoccupati più da un altro aspetto, cioè l'aspetto Grecia in quanto impatto economico-finanziario sulla crescita mondiale, che poi alcuni dicono addirittura si rischia di fare una roba tipo Lehman, ecco, ma non mi sembra che ci siano le carte per quello, è vero o no? No, io credo che assolutamente questo è da escludere. Quello che è il problema è che, diciamo, per certi versi l'economia mondiale e le stime del Fondo Monetario lo stavano comprovando, non è in una fase di crescita sostenuta. Credo che il problema greco potrebbe avere delle ripercussioni, diciamo, extraeuropee, se, come diceva lei, ci possono essere degli interventi della Russia che possano chiamare in causa contro interventi americani. Se per caso ci si dovesse muovere in quella direzione, cioè la Russia cerca di rompere l'ordine europeo o comunque l'attuale schieramento, l'America, secondo lei, non dovrebbe sentirsi responsabilizzata magari a intervenire lei stessa, perché interviene un fattore nuovo? Sì, insomma, io credo che onestamente i 5 miliardi di dollari o di euro che la Russia sembrerebbe aver promesso sono veramente poca cosa di fronte alle esigenze finanziarie della Grecia, non solo nel breve periodo ma anche nel medio, quindi diciamo non vorrei che in Grecia si cercasse di trovare una soluzione di breve periodo ad un problema che richiede invece un programma di più lungo periodo. Però io penso che gli Stati Uniti, se vogliono dare una mano all'Europa, come hanno fatto del resto in questi ultimi anni, è stato attraverso il Fondo Monetario Internazionale o attraverso anche questi meccanismi di swap che possono essere attivati. Si tratta di soluzioni però che vanno comunque integrate in un piano di riforma strutturale, che è quello che, di cui la Grecia ha bisogno se vuole uscire dalla crisi. Ci sarebbero migliaia di approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. E eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato d'Italia la settimana scorsa e dunque, unita all'americana, mi sembra appropriata l'ultima canzone di Madonna, Ghost Town. Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break sooner or later, sooner or later. You're all that I can trust, facing the darkest days. Everyone ran away. We're gonna stay here, we're gonna stay here. I know you're scared tonight. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.